Benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko ad Antonella Salvi, coordinatrice e ideatrice del progetto Tre istituzioni e un patrimonio. Salve, buongiorno a tutti. Tre istituzioni e un patrimonio è un format, un programma operativo che nasce in realtà sulla base di collaudate sperimentazioni fra la Regione Emilia-Romagna e l'Accademia di Belle Arti di Bologna sul fronte del recupero, della conservazione, della riscoperta di patrimoni e della loro valorizzazione e rinnovata rigenerazione, quindi non solo sotto il profilo del loro stato fisico ma anche dei loro significati e dei loro valori. Dicevo appunto che si tratta di sperimentazioni che vengono da lontano, perché è una collaborazione che nasce nei primi anni del 2000, quando addirittura questi cantieri scuola, queste sperimentazioni che puntano sull'operatività dei giovani studenti dell'Accademia, venivano realizzati addirittura in residenza, cioè i ragazzi vivevano un'esperienza tutto tondo di cantiere proprio, addirittura coinvolti e ospitati dall'ente titolare dei beni sui quali si operava, e rimanevano per settimane a lavorare assieme. È chiaro che quel tipo di sperimentazione oggi è un po' più difficile da costruire. Nel corso del tempo le sperimentazioni si sono sviluppate ed arricchite anche di altri aspetti e poi si sono consolidate in tre istituzioni e un patrimonio in questo format nel 2014 attraverso un accordo pluriennale fra la Regione, che sostiene anche finanziariamente, diciamo, le attività di questi progetti, e l'operatività messa in campo dagli studenti e docenti dei corsi di restauro e di comunicazione dell'Accademia. Perché si chiama tre istituzioni e un patrimonio? Perché in realtà la terza istituzione di volta in volta cambia, che è l'istituzione titolare del patrimonio sul quale si opera, e in quest'ultima edizione che stiamo portando a termine dal titolo Terzo Movimento è coinvolto il Conservatorio Martini di Bologna con il suo patrimonio. Una selezione veramente straordinaria di questo patrimonio, che va da due dipinti dell'Ottocento con cornice, un affresco quattrocentesco nella volta del conservatorio, due straordinari bassorilievi scoperti nei depositi, nei magazzini del conservatorio dopo oltre 100 anni, e anche un nucleo di spartiti recuperati dall'archivio di conservatorio e di prove d'esami di illustri compositori del conservatorio stesso. Quindi un panorama veramente diversificato come tipologie e come materiali, che ha messo in campo in definitiva oltre 50 studenti, quindi c'è una squadra veramente corposa in quest'ultima edizione di Tre istituzioni e un patrimonio. Quindi oltre 50 i ragazzi dei corsi delle varie tipologie, e assieme gli studenti del corso di grafica che hanno elaborato, studiato e messo a punto il marchio di progetto per una immagine coordinata, che quindi hanno realizzato pannelli, inviti, pieghevoli sia per stampa che per web, e ancora in questo format generativo e rigenerativo anche gli studenti del corso dei linguaggi del cinema e dell'audiovisivo, che hanno operato come backstage, cioè hanno ripreso tutti i momenti salienti, anche i momenti più difficili, diciamo, delle attività di questo progetto, e hanno messo insieme un video che è un racconto per immagini. Ecco, tutto questo è un'attività che ha comportato una progettazione, una lavorazione che dura da un paio di anni, quindi questi progetti hanno una durata biennale in concomitanza, diciamo, con gli anni accademici, e che, come dire, è un tempo fisiologico per riuscire a mettere insieme attività e risultati. Poi quest'ultimo biennio devo dire che è stato particolarmente difficile per le note questioni pandemiche, ma si è riusciti nonostante tutto a lavorare anche in distanza, in queste meravigliose riunioni online, qui eravamo tutti assieme, 50 ragazzi, referenti delle istituzioni, referenti degli uffici di comunicazione di tutte le istituzioni coinvolte, sovrintendenze, insomma sono dei percorsi delle task force veramente straordinarie per l'entusiasmo, per le abilità, la creatività che investono i ragazzi nel loro percorso di formazione attiva in questi progetti e per l'entusiasmo e il coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni che ne fanno parte, benché con vocazioni completamente differenti, ma ognuno ci mette del proprio, e che hanno portato per l'appunto a generare un coinvolgimento anche della collettività in questa nuova concezione del patrimonio e del suo rapporto con le istituzioni e la collettività e il territorio tutto. Un progetto assolutamente interessante che ha portato alla fine a 3 grandi eventi che adesso daranno i frutti di questo lavoro. Ci può dire di cosa si tratta? Sì, è proprio così. Ci aspetta una settimana, diciamo, come l'abbiamo chiamata, di Kermesse, terzo movimento week. Si apre con una conferenza stampa in cui si vuole dar conto appunto di cosa è successo, di quali sono gli elementi, diciamo, positivi e vincenti di questo format, e a cui faranno seguito una conferenza di progetto in cui gli studenti, veri protagonisti sempre di queste attività, presenteranno ciascheduno nei propri settori operativi e illustreranno il percorso e i risultati conservativi o di comunicazione o di video, insomma, e ognuno racconterà questo. Ci saranno dei momenti di approfondimento del patrimonio sul quale si è lavorato, e questo, come si diceva, durante la conferenza di progetto. Chiuderà questa kermesse, in cui ci sarà inaugurata la mostra sui lavori fatti, le creazioni grafiche che sono state realizzate, e chiuderà, come si è detto, con un concerto che viene tenuto sabato 20 novembre alle ore 18:30 direttamente presso il conservatorio, aperto a tutti, quindi invito tutti a partecipare, in cui verranno suonate per la prima volta le musiche scritte negli spartiti che sono stati recuperati e restaurati nell'ambito del progetto. Quindi sempre questi aspetti di progetti riscoperti, inediti, poco conosciuti e restituiti alla città attraverso anche eventi è un altro elemento di forza di questa modalità operativa sulla quale la regione investe fortemente. Un progetto interessante, una settimana ancora più interessante, quindi ringraziamo Antonella Salvi, la responsabile del progetto, e grazie per essere stata con noi a Radio Fujiko. Grazie a voi e vi attendo al concerto.